Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Buongiorno. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smarchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto gli studi, se tenta, e noi siamo arrivati alla conclusione. Stiamo di qua a mutanda da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. E buongiorno un cazzo a tutti. Infatti si inizia sempre con i soliti cazzi, qualche tipo di problema che in realtà abbiamo risolto, però poi ogni tanto succedono queste cose misteriose che però potrebbero questa volta essere dovute dal fatto che non avevo fatto un riavvio del server, ad esempio, che ogni tanto va sempre bene, o forse perché l'avevo fatto e questa cosa l'aveva un po' ingrippato, non lo so. Però insomma, fatemi sapere quando e se cadrò. Se cadrò, pazienza ragazzi, non ci posso fare niente. E cioè, nel senso, abbiamo risolto parzialmente il problema e cercheremo di risolverlo ulteriormente. E però insomma, siamo qui, per ora siamo live questo giovedì mattina, siamo praticamente in finestra perché abbiamo tutto aperto, quindi chi passa ascolta tutto ciò che diciamo e soprattutto voi potreste sentire tutti i rumori molesti che provengono praticamente dall'esterno. Detto questo ragazzi, oggi è una puntata un po' così. Però devo dire la verità, proprio cerco un attimo di fare anche un piccolo ragionamento. Non voglio approcciare questa cosa con l'odio, con il livore. Lo cerco proprio di fare un ragionamento, cercando proprio di non è una questione di essere asciutti, perché asciutti diventa un po' impossibile su certe situazioni, certi temi o roba del genere, ma cercando un po' di fare un po' una sorta di storytelling e poi ovviamente cercare di fare delle riflessioni, perché questa è una storia di piccolezza, cioè di miserabilità tutto sommato, no? Che poi alla fine abbiamo visto e riscontrato in tantissime altre situazioni e che ha portato ad altre conseguenze più o meno simili. Però a maggior ragione secondo me è più una storia di irresponsabilità, di mancanza di senso proprio della responsabilità nei confronti di quello che si fa e dell'utilizzo del potere che si ha, soprattutto se questo viene fatto a fini ideologici, di fanatismo anche religioso. E torniamo sempre al solito discorso del fatto che noi guardiamo l'Islam, così come dice la buona Giorgia Meloni, guardiamo all'Islam come una religione violenta, quando le religioni di per sé, e la nostra non è da meno, l'ha dimostrato in maniera secolare, insomma, sono violente sempre quando c'è un presupposto legato al fanatismo, all'ultra convinzione che ciò che si fa sia giusto, è giusto e c'è un bene superiore che ci giustifichi qualsiasi cosa che facciamo. Beh, non è così, non dovrebbe essere così. Sulle tue curve la mia mano ondeggerà, anche se il tuo corpo di curve non ne ha. Sei sempre più spigoloso, poi sorridi se mi mostro geloso. Mi uomo con le mani da uomo questo maggio per papà. L'uomo senza curve un donnone sposerà. No, c'è anche amore senza rima. Voglio urlare più forte di prima. Amami uomo con le mani da uomo e toccami fiero con un soffio leggero e portami via delle braccia tue, sarò in balia. Prendimi, apparecchiami, poi sorprendimi con un mazzo di fiori freschissimi. Fermo restando che storie come queste in realtà, e qui faccio un po' un'estremizzazione, in qualche maniera non ci scagionano a nessuno, siamo tutti un po' colpevoli, no? Anche se uno salzerebbe in piedi e direbbe no, ma io che c'entro, io non ho fatto niente. In realtà poi alla fine se ci riflettiamo, e a volte mi capita insomma di soffermarmi un po', riflettere un po' su questa questione, ogni volta che facciamo una battuta, ogni volta che utilizziamo un linguaggio improprio, ogni volta che non ci rendiamo conto magari di quello che diciamo, in qualche maniera ci rendiamo responsabili un po' di queste ferite che in qualche maniera si aprono su tutti noi, no? In qualche modo. Però a volte c'è la non intenzionalità, magari c'è un atto di distrazione, magari uno pensa che una battuta possa essere concessa e questo ci può anche stare, però poi quando la cosa diventa un meccanismo di odio, di incapacità di comprensione del fatto che le persone sono persone a prescindere da quello che da quella mattina in poi hanno deciso di sentirsi, perché può succedere anche questo, oppure può succedere che ci sono delle cose che uno si porta dietro da 20, 30 anni e che a un certo punto in qualche maniera sbucano fuori, affiorano in maniera definitiva, rompono quel muro, spezzano quel tipo di vetro che praticamente separa il nostro interiore, il nostro subconscio da quello che ovviamente è la società che ci circonda, che comunque è sempre lì pronta un po' a giudicare, un po' a dire la sua su quello che dovrebbe essere, quello che non dovrebbe essere. Ecco, questa è una cosa dalla quale noi non riusciamo a distaccarci, questo fatto di tenere ovviamente pronta sempre la morale, no? Il giudizio, il qualcosa che dobbiamo sempre esporre verso l'altro, e non ci rendiamo conto che siamo ancorati a una visione della vita che è talmente primitiva da un certo punto di vista che si sta sciogliendo da sola, si sta cadendo da sola, si sta sbriciolando da sola, perché ogni discriminazione che noi pensiamo di fare, ogni forma di razzismo, di omofobia, di transfobia che noi applichiamo nei confronti degli altri, c'è una generazione, quella successiva, quelle successive, quelle più recenti, che oggi vanno a scuola e vivono un mondo che è totalmente diverso da quello che noi pensiamo che debba essere il mondo, ed è talmente diverso che quel tipo di disorientamento che loro provano non è verso lo straniero, quello che ha il nome diverso, che ha il colore della pelle diversa, che si veste diverso, che ha un atteggiamento culturale diverso, ma è verso i propri genitori, verso la generazione precedente, che ancora continua a non capire che quelli sono amici, sono persone, sono individui che entreranno a far parte della vita dei nostri figli, no? In qualche maniera, che già fanno parte della vita dei nostri figli, no? E indipendentemente da tutto, i ragazzi più giovani, ovviamente, poi insomma bisogna sempre contestualizzare un po' la cretinaggine che ci può essere, c'è sempre quella buona percentuale, no? Di stupidità che galoppa in maniera selvaggia. Comunque i nostri figli guardano a queste cose con un atteggiamento di normalità e di semplicità, che alla fine in qualche maniera prima o poi ci convinceranno anche a noi che quelle diversità che noi consideriamo diversità alla fine in qualche maniera possano in qualche modo appunto rientrare nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, nel modo di essere, indipendentemente da quello che è l'esteriorità o quello che noi pensiamo che sia giusto secondo una morale predefinita che qualcuno ha disegnato per noi sulla base delle parole di un fantomatico, di una fantomatica divinità che nessuno ha mai visto e nessuno ha mai sentito. E insomma, perché poi così siamo buoni tutti, no? Di che c'è quella legge, quella regola detta e fatta. E questa che andiamo a raccontare questa mattina è una storia di persone che non sono in grado di comprendere e che non sono in grado perché non vogliono, che qui c'è una questione proprio di volontà che va molto al di là, no, del fatto dell'essere capaci di capire, perché secondo me quando non c'è la volontà, quando si pensa che quel tipo di presupposto, quel tipo di ideologia, quel tipo di approccio sia più corretto e più giusto rispetto a una qualsiasi tipo di diversificazione, è chiaro che non c'è la volontà, ma è una volontà anche frutto di una necessità, no? Di essere legati a un modello che è la nostra comfort zone, cioè noi vedere il mondo binario in qualche maniera ci aiuta, no? Perché dice, ah, beh, così è, così perché così è sempre stato, i nostri nonni erano così, ma in realtà, ma noi che cazzo ne sappiamo di come erano i nostri nonni? Se i nostri nonni comunque facevano i contadini e magari si sposavano perché devono sposare e fare i figli che devono fare a loro volta i contadini e poi magari dietro alla prima fratta magari facevano qualcos'altro con qualcuno, cioè non lo sappiamo, non lo sapremo mai, perché noi siamo sempre tutti quanti pronti, no, a parlare dell'integrità morale e macistica dei nostri antenati o della visione così monolitica e rispettosa della famiglia delle nostre antenate, che in realtà poi alla fine ci rendiamo conto di che di tutto questo non sappiamo niente e vogliamo non sapere niente, perché preferiamo che questo sistema, questo schema funzioni sempre in modo che noi si sia tranquilli e non ci si debba confrontare con cose diverse che ci mettono a disagio in quanto diverse, proprio per quello. Quindi alla fine c'è questa cosa di voler distaccarsi dalla cosa che ti rende, ti mette a disagio, e la cosa che bisognerebbe domandarsi è perché ti mette a disagio. You got the upper hand, I've been down on my luck. Yeah, I've had better days, but of high steep falls. There's a reason why people love an underdog. Battles on one, they just show who you are. And in the end, you know I'm open mind. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon enough, you're gonna watch me fly. Saying there goes a king, and the soul to know. Storia la conoscete tutti. Alla fine facciamo un riassuntino così, giusto per dare un po' un tocco, diciamo, di senso alla puntata, senza dire cose che manchino poi di premessa, che alla fine poi pare non dare coerenza un po' al senso, alle parole che stiamo dicendo, no? E intanto, prima di iniziare, volevo leggere un po' i commenti. Vabbè, c'è Francesco che dice che va a correre, ma ci ascolterà, perché questa storia l'ha colpito particolarmente anche a lui, e anche Michela conferma il fatto che sia una storia difficile, mentre che giustamente Walter, un po' faccio io di solito, però poi alla fine in questo caso vorrei cercare di avere un approccio un po' diverso, ma non da lui in senso generale, ma proprio da quello che in realtà ti verrebbe, no, da fare. Poi però poi ci rifletti e dici, vabbè, ma allora poi dopo, cioè perlomeno, no, la mia riflessione, dico, vabbè, allora cosa mi discosta da queste persone di cui poi andiamo a parlare? Lui dice che la settimana scorsa, insomma, non ne ha parlato, perché dice che fare 40 minuti di podcast o tutti i bip non avrebbe avuto molto senso. Ma francamente riesco a trattenere a malapena la lucidità costruttivamente. Vorrei solo appendere per i piedi qualcuno. E questo secondo me è un po' il punto, no? Cioè, nel senso, senza arrivare al discorso di vendetta, no? Cioè quasi di giustizia barra vendetta, secondo me è proprio una questione di senso di responsabilità, e ci arriviamo, insomma, in questo caso. Comunque, noi possiamo raccontare questa storia come la storia di una persona che in qualche maniera aveva iniziato un cammino che ha iniziato in realtà quando era bambino, e nel quale ovviamente vedeva se stesso in una maniera diversa da come in realtà era tutto il resto della sua vita, quindi del suo corpo, del suo vestirsi, del suo esteriorizzarsi, no? E cammino che a un certo punto ha portato a fare dei ragionamenti un po' pubblici, un po' privati, fino ad arrivare a un giorno in cui c'è stata una mancata transizione da un certo punto di vista per quello che è la persona che vede dall'esterno, no? Cioè non c'è stato un passaggio, diciamo, c'è stato semplicemente un atto netto, che comunque in qualche maniera ha lasciato probabilmente, quasi sicuramente, insomma, le persone un po' basite, diciamo così, no? Perché un giorno si presenta in classe, si presenta a scuola completamente vestita da donna, con la minigonna, con la parrucca bionda, quindi insomma cercando ovviamente di essere quello che evidentemente fino a quel momento non è riuscita a essere, quindi cercando di essere anche lei all'interno della sua comfort zone, di quello che avrebbe voluto essere, quindi il bene che magari sentiva nell'essere quello che stava cercando di essere, appunto. Entrando in classe ha detto: ragazzi, questo è quello che ho sempre voluto, da oggi mi chiamerete Chloe. Chiaramente questa cosa uno potrebbe dire nella regione Veneto ha scatenato, ma in realtà sarebbe successo probabilmente la stessa cosa in tantissime altre realtà, in tantissime altre regioni, in tantissimi altri posti. Chiaramente questa cosa ha scatenato il putiferio, no? Ha scatenato il putiferio, insomma, alcune reazioni anche da parte di alcuni genitori, magari delle reazioni scomposte, delle lettere ai provveditorati, all'assessorato, da parte di un genitore che magari aveva anche mal interpretato, no? Il pensiero del figlio barra figlia che gli aveva raccontato questa cosa che era successa in classe. Perché ci può anche stare che un ragazzo lì per lì si possa sentire anche un po' spiazzato da una determinata situazione e che magari la condivida in famiglia per cercare magari un confronto, anche una bussola morale da un certo punto di vista, per dire: oh, ma questa cosa, perché non possiamo pensare che tutti i ragazzi abbiano sviluppato una propria sensibilità sul tema o abbiano comunque un senso critico rispetto a questo tipo di ragionamenti o di situazioni, no? Quindi ci può anche stare, no? E ovviamente, come vediamo sempre quotidianamente su ogni questione, c'è sempre il genitore che s'alza in piedi e protesta nel gruppo WhatsApp della scuola, ma questo succede su qualsiasi cosa. Noi lo stiamo vedendo con Michela, non mi frega un cazzo se poi c'è qualcuno che ascolta o no, ma pure nel gruppo, capito, del parchetto dei cani succedono queste cose, perché oramai c'è una voglia di moralismo, c'è una voglia di protagonismo nei confronti delle cose, nessuno vuole rispettare regole, però vogliono che gli altri le rispettano, questa è la cosa primaria. E questa lettera in particolare da parte di un genitore ha scatenato tutta una serie di situazioni che ovviamente concatenandosi hanno portato, non posso sostenere, sarebbe scorretto dire che hanno causato una tragedia, ma hanno comunque contribuito al raggiungimento di una tragedia, e lo hanno fatto anche attivamente, tutto sommato, perché appunto questa lettera viene usata come strumento politico ideologico da parte di un assessore della regione Veneto. Vi dico che l'assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e alle pari opportunità, che è la cosa più sconvolgente che ci possa far immaginare, insomma, è la Elena Donazzan, che è di Forza Italia e che ovviamente in una regione dove Forza Italia e Lega è praticamente la stessa cosa fondamentalmente, quindi non è che c'era, insomma, pubblicando questa lettera, tra l'altro anche in maniera, insomma, così ritorniamo anche al fatto che la gente non conosce neanche le basi di quella che dovrebbe essere la politica social, no? Rispetto a questo mondo della super condivisione, non c'è da aggiungere altro, quindi già presupponendo che questa cosa avrebbe scatenato ovviamente una guerra, inevitabilmente tutta una serie di polemiche, quindi innescando una miccia poi fondamentalmente, perché se il politico, quindi l'istituzione in qualche maniera, si presenta e si propone in questa maniera qui, dà adito comunque a tutto il resto dei buoi e delle pecore a fare lo stesso, perché già ce l'ha detto al nostro assessore alle pari opportunità, al lavoro, all'istruzione, all'anima di mortacci sua, quindi è giusto che, insomma, no, lo facciamo anche noi. Il problema è che ovviamente in questa situazione lei ha fatto diverse dichiarazioni, passando dalle dichiarazioni anche ai fatti, perché lei ha dichiarato che non ci vedeva niente da dover rispettare, perché per lei era semplicemente una pagliacciata, era un uomo vestito da donna, quindi un pagliaccio fondamentalmente, e in più ha cercato, cioè ha prima politicamente fatto affermazioni del tipo che una persona del genere non aveva il diritto né il dovere di stare all'interno della scuola, quindi di istruire le nostre generazioni, che se vedevano un uomo vestito da donna sarebbero spaventati e sarebbero diventati tutti bestie di Satana, chiaramente. E poi ha attivato tutta una serie di meccanismi che hanno prima sospeso e poi completamente allontanato Chloe Bianco dal suo lavoro, il lavoro che le piaceva, il lavoro che faceva, il lavoro che aveva finalmente poi tra l'altro ottenuto, perché forse qui è stata un po' l'ingenuità magari da un certo punto di vista, cioè l'atto che ha scatenato il fatto che ci fosse stata una paraculata dietro, è che proprio nel momento in cui aveva ricevuto praticamente la cattedra in maniera definitiva, lei poi ovviamente ha fatto questa scelta, insomma, del presentarsi come Chloe Bianco, no? E quindi questo allontanamento dalla scuola l'ha portata a un allontanamento progressivo da tutto, e questo noi l'abbiamo visto, chi magari ha potuto anche andare un po' a ripercorrere indietro un po' tutta la storia, anche dal blog che teneva, dai social, fino ad arrivare al giorno in cui, guardate, io questa è la cosa che mi fa un più, non so neanche che tipo di reazione o emozione possa essere, però c'era talmente una asciutta consapevolezza di confronto, cioè tante volte abbiamo letto messaggi di persone che erano pronte o poi hanno comunque messo in pratica un atto di suicidio, no? Però la lucidità, la convinzione che è arrivata quasi a livello proprio di essere ultra convinta che questa era l'unica soluzione, talmente tanto da aver lasciato un messaggio che quasi sembrava felice di una scelta del genere, no? Perché giustamente lei nel messaggio dice: io oggi mangerò i cibi che mi piacciono, berrò il vino che è, quindi mi godrò questa giornata per poi fare questo atto che in realtà non è nient'altro che l'atto della mia liberazione. È un po' come dire: anche poi vi libererò tutti, no, da questo fardello. Dobbiamo considerare anche, c'era, cioè, una cosa che mi ha molto colpito, questa cosa, che quando lei andava a scuola durante la strada, nel tragitto, praticamente si formavano i capannelli delle persone, perché era un po' come il fenomeno a baraccone, no? Vediamo oggi che fanno al circo, no? Che è una cosa che però da una regione che ha visto, cioè, in particolare, no? Cioè, dove c'è una città nella quale hanno visto annegare un extracomunitario nel fiume senza che nessuno, cioè, l'unica cosa che hanno potuto fare è fare i filmini col cellulare, insomma, bisogna dire che questa cosa non ci può sorprendere più di tanto, no? E quindi dopo questo messaggio di lucidità o di follia, non lo so, non saprei neanche come descriverlo, non sono nelle condizioni di poter giudicare, però sicuramente è un messaggio diretto comunque, no? Quindi alla fine chiaro e consapevole almeno. E poi ovviamente c'è stata la segnalazione del camper che andava a fuoco, camper che nella quale poi negli ultimi tempi praticamente viveva, perché poi probabilmente sarà stata anche allontanata dai propri familiari, dalle persone che conosceva, io non lo so, perché questo non si trovano proprio tanti dettagli, ma non è neanche importante, perché non è che dobbiamo andare ad azzeccarci alla vita di Chloe Bianco in quella maniera morbosa per vedere che il livello di sofferenza avesse raggiunto. È abbastanza chiaro ed esplicito nel gesto e nelle ultime righe che ha scritto, io penso che non ci sia molto altro da dire, no? E chiaramente questa cosa ci ha sconvolto, perché tutto sommato alla fine quello che è successo è un atto finale di una cosa che arriva per uno stato profondo di depressione che è aumentato progressivamente è caduta progressivamente in questo baratro di vuoto e di solitudine, proprio perché c'è una persona che dovrebbe essere il massimo esempio di integrazione, appunto, pari opportunità, poi e di istruzione, quindi far capire anche alle nuove generazioni che ci possono essere delle differenze. Ecco, queste persone, senza nessun minimo presupposto di senso di responsabilità, ha fatto un attacco diretto e frontale per difendere una parte di elettorato e per dare adito, quindi aprire bocca e dargli fiato, a tutta una visione ideologica della religione e dello stato morale della nostra società, che onestamente non sta più né in cielo né in terra. E che ha pagato soltanto una persona. E quindi andiamo un attimo a fare questa riflessione, perché anche se sei politico e hai il diritto e il dovere di esternare, esplicitare tutte le tue idee in tutti i modi che tu ritieni opportuno, c'è un limite entro il quale bisogna iniziare a mettere delle nuove regole in una nuova società, perché questa visione della politica e del politico esisteva proprio perché non esistevano i mezzi che esistono oggi, e quindi se esistono i mezzi che esistono oggi devono esistere delle nuove regole anche nei confronti dei politici. E non si tratta di provvedimenti liberticidi, chiaramente, ma dei provvedimenti di responsabilità, perché tu puoi dire quello che ti pare, però se questa tua cosa in qualche maniera, anche indirettamente, causa dei danni a qualcuno o causa la morte di qualcuno, tu devi pagare in qualche modo. Golden, blue, silver, sheety white soul. Knocked twice on the window and came to my home. She said, I turn off the lights, do you mind? I said, fuck off and refill. Golden, white, silver, something, shut up and sit still. Golden, red, silver, shitty white soul. Turned on the coffee machine and whispered in the door hole. I said, brother, do you see her? The shitty white sheep. But he didn't answer, cause she doesn't exist. Oh. Oh. Oh. Golden, green, silver, shitty white soul. Let out her kittens to play in the hall. If I stay, if I sit on the bed, if I comb your hair and caress your head. Oh, oh, oh. She wants something. And you wear your white dress. Poi vedete ragazzi, io penso che tu la puoi pensare come te pare, io lo accetto anche che una persona possa avere delle idee diverse dalle mie, anche radicalmente, che abbia una visione moralista della vita, che abbia bisogno di vedere il proprio Dio come una sorta di duce e padrone, io lo accetto anche. Il problema è che la cosa che non accetto, e qui rientra la politica degli ultimi vent'anni, no? Di questo modo aggressivo di fare politica, perché oggi bisogna far vedere tutti i coglioni, anche se sei una donna, o se sei qualcos'altro che non è un uomo o una donna. È una cosa triste, ragazzi, è una cosa veramente triste, perché proprio non c'è più il senso del rispetto. È vero che probabilmente molti di questi politici che vengono dalla Lega, da Forza Italia, fanno parte di una parte della società che è completamente distaccata dal mondo reale, io questo lo posso anche mettere in discussione, però quello che non accetto, che non capisco, è come si fa a non avere neanche il tempo di soffermarsi un secondo e fare due conti con se stessi, cioè essere magari convinti delle proprie idee, magari convinti anche delle cose che si sono fatte, anche se magari sono sbagliate, però avere comunque quella parola di rimpianto, di rimorso, di dispiacere, comunque anche solo di sensibilità nei confronti della questione, tipo io continuo a vederla in questo modo, però mi dispiace di questo epilogo. Cioè, non avrei voluto, forse avrei dovuto comportarmi in una maniera diversa, ci sarebbe potuto essere una discussione, oppure semplicemente dispiacersi, no? Per il fatto che a volte quando prendiamo un microfono e parliamo, diciamo cose e non ci rendiamo conto di quella che è ovviamente la conseguenza di quello che può succedere, no? E questo è veramente brutta, no? Questa situazione qui, perché poi se ci pensate alla fine è quello che manca rigorosamente ogni sacrosanta volta. E anche questa volta, no? Perché uno va a rileggere le dichiarazioni della Donazzan dopo tutto quello che è successo e a volte dici, ma addirittura dopo ti stupisci, no? Del fatto che lei, invece di dire cazzo mi dispiace, contrattacca, no? Cioè nel senso è una cosa. Eppure a me non mi stupisce proprio, perché si sa che è così. Quello è il modo di fare di questa gente qui. Non avere proprio quel briciolo di sensibilità nei confronti delle cose e continuare a dire che è giusto magari in quella maniera lì, e questo è una cosa che mi fa specie. Addirittura si è lamentata perché c'è stata una campagna di odio verso di lei e che ha dovuto bloccare i social. Sì, è vero, infatti il Twitter il giorno dopo era già bloccato. Eppure questo è un atto di meschinità da una parte, anche se dall'altra posso pure capire, insomma, che tutti ti riempiono di minacce di morte e cose del genere, però allo stesso tempo tu non ti puoi lamentare di quello che ricevi, quando se quello che tu hai fatto o hai dato in qualche maniera ha innescato dei meccanismi, e la tua incapacità di ragionare su questo, la tua mancanza di volontà nei confronti di questo è la cosa forse più raccapricciante di tutta questa storia. E quindi questo attacco frontale che fa nel mondo, contro il mondo LGBTQ+, e via dicendo, dicendo che stanno strumentalizzando la morte di una persona per ragioni politiche, forse magari da una parte sì, però forse magari da parte di quelle persone c'erano i suoi amici, c'erano i suoi confidenti, c'erano le persone che amava, magari c'era una fidanzata, un fidanzato, un fidanzato, oppure c'erano altre persone con le quali collaborava, magari persone con le quali aveva impostato dei progetti, dei blog, dei siti, dei lavori social, oppure semplicemente altre persone con le quali condivideva magari la sua questione per cercare di trovare anche lì un indirizzo, perché voi immaginate che non sarà mai facile, penso, vivere da donna dentro un corpo da uomo e viceversa, prima di arrivare a fare un procedimento di trasformazione che magari a volte ci si arriva, a volte no, a volte si è pronti, a volte non si è pronti, e a volte siamo magari frustrati e castrati dalla famiglia che ci circonda o dalle persone che conosciamo e via dicendo, no? Quindi questo attacco frontale non mi pento di niente, c'è una campagna di odio contro di me, questo tentativo di ribaltare tutto, quando tu sei, non sei il politico, non sei il parlamentare, non sei il consigliere regionale, sei l'assessore all'istruzione e alle varie opportunità. Questa mancanza di capacità, non di sensibilità, proprio di capacità di voler ragionare e dire cazzo, cioè non doveva finire così. Ribadisco, proprio cercando di trovare proprio anche dentro di te la sera tornando a casa di cazzo, però questa storia è proprio finita male, è proprio sfuggita di mano, ma non a me, no, in generale, no? E per me questa è proprio la cosa che mi fa partire proprio la brocca, cioè mi fa incazzare proprio da mettere i bip come fa, perché poi non dovrebbe arrivare la gente a dire ti ammazziamo, ti appendiamo a testa in giù, fascista di merda o cose del genere. Dovrebbe arrivare proprio una regola che dovrebbe far capire che c'è un limite al nostro senso di responsabilità, c'è un limite al nostro senso di responsabilità, non c'è un limite, c'è un limite alle cose che possiamo dire, alle azioni che possiamo mettere in campo solo per ragioni ideologiche. Non può essere. Non può essere, ragazzi, non è accettabile una cosa del genere. Poi, come dice giustamente Sbano, ci sono poi delle realtà, delle aree della nostra società che proprio completamente glissano su questo tipo di problematiche. Nessuno. Abbiamo sentito il Papa, forse potrei anche dire una cazzata, però magari a me mi è sfuggito. Se è successo, fatemelo sapere. Ma io non ho sentito il Papa dire povera Chloe che si è tolta la vita, no, anzi il fatto che si è tolta la vita è doppiamente peccatrice, quindi il fuoco poi alla fine si è andato a vedere proprio giusto, è proprio la giusta autosentenza, no, perché ragazzi è una cosa raccapricciante questa miopia, questa incapacità di capire che il mondo vuoi o non vuoi sta cambiando, per quanto c'è questo reazionarismo globalizzato, questo desiderio di destra, questo desiderio di punizione, di rigore, di papare, alla fine il mondo si sta comunque trasformando, comunque le coscienze hanno iniziato un cammino al quale è difficile riuscire a tornare indietro. E questo è inevitabile che sia così, ed è anche giusto, perché è parte dell'evoluzione, e l'evoluzione ha sempre camminato a singhiozzi, passo avanti, due passi avanti, mezzo passo indietro, due passi avanti, qualche passo indietro, è sempre stato così e sarà sempre così, e anche questa cosa non la fermerete, non potete fermarla, e quindi dato che non potete fermarla, per quanto vi ostinate, per quanto io sono Daniela, io sono Cristiana, ma sei anche un po' una stronza. Un piccolo seme può dare molto frutto se mani amorevoli se ne prendono cura, ma alle volte questo può non bastare. Ogni giorno migliaia di alberi vengono abbattuti, lasciando il nostro pianeta sempre più povero di una risorsa importante per la sua sopravvivenza. Ed è per questo che noi di Runtime Radio abbiamo deciso di sposare la nobile causa di Tridom, una realtà tutta italiana che da anni si batte per riforestare il pianeta con un sistema che fa bene a tutti. Vai sul nostro sito www.runtimeradio.it e accedi da lì alla Vargheomacchia, la nostra piccola foresta su Tridom, in cui potrai comprare un albero da far piantare nel luogo che desideri. Le cooperative locali pianteranno il tuo seme nel rispetto dell'ecosistema, della fauna e aiutando così anche l'economia del luogo. Basta un piccolo gesto per fare la differenza. Fallo assieme a noi. Cerca la Vargheomacchia sul sito www.runtimeradio.it. Grazie. Yeah. E niente, praticamente non so perché. Infatti pure con Deb, come sai, con Pixel Deb, devo specificare che non si chiama Daniela, si chiama Giorgio. Ma non so perché mi aveva preso così sti giorni, per me era Daniela, non c'è cazzo da. Vabbè, comunque Giorgia Meloni, sì. Non credo che ti sia sfuggito, il Papa non si esprime manco quando va a cagare Salvini, che dice di chiudere i porti. Va bene ragazzi, comunque chiudo con un'altra cosa, un'altra notizia triste che mi ha rattristato veramente tanto, anche se stavolta purtroppo non è colpa di nessuno, cioè purtroppo, cioè, non è colpa di nessuno e se non del destino in qualche maniera, perché veramente a volte saccanisce, insomma, come dice Michela, perché è morta a 20 anni Nazifa Nur Ahmad. No, scusate, vabbè, comunque Nazifa, forse qualcuno se la ricorderà, perché aveva preso praticamente la nomina di alfiere della Repubblica da Mattarella per il suo impegno nel campo del volontariato, della protezione civile, soprattutto perché lei ha assistito tantissimo i profughi afghani in generale e anche come traduttrice, come interprete, diciamo così. La sua storia è, insomma, diciamo che c'era arrivata, insomma, nelle nostre case, perché questa bambina che arrivò poi ovviamente in Italia grazie all'intervento della protezione civile e dei militari italiani che erano allora, insomma, in stanziamento in Afghanistan, fu portata in Italia proprio per mettersi di curarsi da un linfoma, insomma, che c'aveva a livello polmonare, insomma, qui sul torace. E durante ovviamente il suo periodo di crescita, lei dal 2008 al 2022 praticamente è stata ricoverata diverse volte, un po' per terapie, un po' per ovviamente impigionamenti e miglioramenti, fino ovviamente a fare questo ultimo intervento recentemente, intervento di trapianto dei polmoni, proprio, insomma, atto a cercare di salvare la vita a questa ragazza che, come ricordiamo, appunto, insomma, ha avuto, insomma, una parte importante, ha trovato interesse e passione anche nel volontariato, nell'assistenza, nell'aiuto verso i più deboli, non tanto secondo me perché sei afghano e allora comunque aiuti gli altri afghani, ma in generale penso che sia proprio una questione di sensibilità personale che alcuni ce l'hanno e alcuni non ce l'hanno. E quindi niente, praticamente lei è stata sottoposta a questo intervento chirurgico e purtroppo poi, come sappiamo, è venuta a mancare. E niente, questa è un po' una cosa, ci tenevo perché mi aveva colpito molto questa cosa e difficile, insomma, riuscire in qualche maniera a capacitarsi di come a volte se è il tuo destino, è il tuo destino, e per quanto tu ci lotti contro e fai bene, perché mai arrendersi, però insomma veramente è una cosa incredibile questa cosa, cioè, a volte non ci so parole, ma questo vale per tutti, non è che vale per una persona piuttosto che per un'altra, perché una è più o meno debole di quell'altra. Va bene ragazzi, adesso ci sentiamo un brano, l'ultimo sicuramente, anzi ci sentiamo mezzo brano, così almeno siete tutti un po' più contenti. Tempo un attimo di organizzarmi, così andiamo verso la chiusura e verso i saluti, e vi dico anche, insomma, cosa ci sarà prossimamente. Stai ascoltando Runtime Radio, sempre più live, sempre più radio. On been a hot dog, catch me on a bit, make it hot dog. I'm going in for the bread like a hot dog. Sweat on the track when I lace, no race, dog. Dog, I'm coming for everything. Can't wait to get mine, send the bottom of everything. Started from the bottom, but I ain't never got there. Waiting for a long time, shit crazy out, shit. There's a bar to be on the line. I'm about mine, still I'm down on the line. Before you hit me with a federal line, I'm aiming for the branded tap money, no federal line. Kill tracks when I hops in. I'm a grown man, never been a party. Born in the rain, still hear it dropping. Feel the vibe, come on, let the track sing. All sing, my sing. Life, I've been waiting. to the F still over in the game. Just wanna sell my own story, but ditch on the fame. Wrapped up in all these illusions, call me David Blaine. When you're chasing dreams, milestones could drive you insane. All my life didn't try to belong. I chose to give my own opinion, what's right and what's wrong. I'm human, always wanted some more. Been to Bangkok, now I wanna do Singapore. Monk told me don't rush it. Life give lemons, make lemonade of it. Andrew told me bro, I got his own control of it. Me, honestly, I don't like the pace of it. Man, I didn't follow my dreams. It's like I'm almost there yet I ain't feeling that cream. Damn, this feel of discontent bad is killing me. This is all my way to therapy, me. All my life, I was gonna worry. What's the fuck, no, what the fuck, knock, walk, knock, attack, suck, pack, fuck. Vabbè. Vabbè, dai, che mi è andata pure via un po' la voce, un po' la voce. Allora sapete che vi dico? Vi dico questo qua, guardate che adesso con la mano sola sto a fare delle cose mirabolanti. Carissimi amici di Buongiorno un Cazzo, mentre che qui si agitano tutti davanti a me e sono già finite le terapie, la povera Scozia che purtroppo questo periodo deve fare delle terapie intense e fastidiose per lei sicuramente, però purtroppo gli tocca perché è un catorcio che sta male una volta ogni due. Però detto questo, io vi saluto e vi ricordo che oggi pomeriggio alle 20 ci sarà ovviamente le orazioni della sera. Vi ricordo anche che è uscita ieri la puntata di Ipocrisy, che vi suggerisco di andare ad ascoltare e condividere, aiutare questo podcast a crescere. Ma soprattutto vi ricordo che Disordinati Informati Crossover bla bla bla e via dicendo andrà in onda praticamente domenica invece che sabato, e che né Archeologia Informatica né Quando Eravamo Futuro andranno in onda questa settimana. Perché? Perché per lo stesso motivo per cui Disordinati Informati andrà domenica mattina alle 9 anziché il sabato, perché siamo a... dove siamo? Siamo al Nerd Show di Bologna sabato a fare interviste, riprese, interviste, riprese, interviste, riprese. In teoria abbiamo anche un pezzo grosso da intervistare, anche se io continuo a domandarmi perché, però non, per carità, insomma, non so che ha tutta una schiera di appassionati. E invece vi ricordo che oggi dovrebbe uscire un nuovo video di Archeologia Informatica sul canale YouTube di Archeologia Informatica dedicato al Gardacon che si è tenuto un paio di mesi fa, con tutto il reportage e tutto quanto, insomma. Grazie a tutti di averci ascoltato e mi raccomando, domattina alle 7 con Leo Vargion e Il Mattino all'Oro in podcast.